Creo il finimondo come corona. La vera musica talvolta la ciclona. Le richiudo facendo finta di essere la loro botola, lasciandoli applaudire dentro la scatola. Tutto è normale, quindi tutto è logico. Non si può morire con un banale mal di stomaco. Dal vero sono sempre troppo distanti. Lo fanno solo per arricchire i commercianti. L'hip hop stilo nelle mie vene scorre. Fanno rime che un bambino le saprebbe comporre. Tutto cambia se si ragiona. Non è puttane, soldi e droga, ma verità è quello che si prova. Senza macchinoni, medaglioni e tutto ciò che luccica. Non è oro, ma non ti stuzzica. Li trovo nella hit nazionale. Non respiro e resto con la faccia da funerale. Io non respiro più, andrò sempre più su. Ormai è falso quello che gira intorno a me. Io perciò andrò sempre più su, dalla merda che c'è qui giù. Restando vero e poi no, io non lo tradirò. Enzo, coppa, zio, nuova session. 100 gradi per il palazzetto connection. Purtroppo artisti giocano brutti scherzi. O ci ami o ci disprezzi, qui la scena non apprezzi. Non respiro per non assorbire aria impura. Non respiro per la troppa enfasi d'oltre misura. Per l'insuccesso si gonfia una botte di gin. Il giorno dopo li vedi che sfondano nel mainstream. Soldi, donne, pistole, pezzi grossi vi aprono le porte. Cose che hanno i rapper pezzenti ci suonano con torti. È un impero di tonti, il comandante, il contante. MC venduti con la stessa etichetta di cocciante. Se la cultura è malata voi siete ruderi. Vedi per scappi di business di pompe funebri. Solo sporche attività, tipo grani affari. Noi vi scherniamo ma allestiamo i ripari. Yeah. Io non respiro più, andrò sempre più su. Ormai è falso quello che gira intorno a me. Io perciò andrò sempre più su, dalla merda che c'è qui giù. Restando vero e poi no, io non lo tradirò. Chi ha pronto nel confronto, a fronte sfondo tutto attorno. Sento hit, non so not, non è caldo questo forno. In forno, in forno, questi gang da gang band a film porno. Non sento clap né clap, non c'ho scritto John Condo. Oh boh, ti rendi conto, non respiro sta robaccia. Tutti gangsta da padrino, sì con la pistola d'acqua. O chi si imbusta la faccia, ci ha tradito, non respiro. Parli tanto da ammazzarti, ma perché sei ancora vivo? Questo è hip hop, non son giochi da Game Boy. Sento Max Pezzali che mi dice super b-boy. Supereroi, ma non siamo alla Marvel. Ti metto dei pile in culo e suoni come un ghetto blaster. Come Ghostbuster attacco sti fantasmi che vuoi farci calarti. In quattro quarti per distratti faccio Far West. Voi guerrieri Jedi tutti the best. Con la spada comprata alla fiera dell'est. Io non respiro più, andrò sempre più su. Ormai è falso quello che gira intorno a me. Io perciò andrò sempre più su, dalla merda che c'è qui giù. Restando vero e poi no, io non lo tradirò. Io non respiro più, andrò sempre più su. Ormai è falso quello che gira intorno a me. Io perciò andrò sempre più su, dalla merda che c'è qui giù. Restando